il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Benvenuti a questa prima puntata dell'anno 2015 della rubrica Il Quadrifoglio, una trasmissione che si occupa di ambiente e agricoltura, ma che ci vuole anche portare a conoscere i luoghi del nostro territorio veneto e anche i prodotti tipici. Oggi partiamo da Segusino, un comune in provincia di Treviso al confine con la provincia di Belluno lungo le sponde del Piave, poco noto ma che in questo periodo dell'anno viene visitato da numerose persone. Perché? Chiediamo a Carlo Stramare, presidente dell'associazione Amici del Presepio di Segusino, perché venire a visitare Segusino, in particolar modo in questo periodo dell'anno. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Beh, uno dei motivi principali durante il periodo natalizio è il presepio artistico, un presepio che si estende su una superficie di 100 metri quadrati e che in occasione del Natale 2014 tratta il tema dell'immigrazione, quindi migranti, il titolo del presepio 2014. Ma non solo presepio Segusino, quindi borghi, un paese piccolo, un paese vivo, un paese pieno di gente disposta a lavorare, volenterosa e che in ogni occasione, in ogni Natale si anima, si carica di gioia e di felicità per addobbare a festa tutto il paese in ogni sua via, in ogni sua borgata, in ogni suo angolo anche più remoto. Molti poi altri appuntamenti a Segusino, quindi non solo Natale ma anche negli altri periodi. Ricordiamo tra tutti la Fiera del Rosario, l'antica Fiera Franca del Rosario, che si svolge l'ultimo weekend di ottobre ogni anno e che è un momento di ritrovo di scambio, un momento agricolo, chiamiamolo, dell'anno. Quindi l'anno agricolo che si chiude, l'anno agricolo appena chiuso, e lì si portano i prodotti dell'alpeggio, i prodotti, il formaggio, piuttosto che tutti gli altri prodotti, gli insaccati e via dicendo, è uno scambio, una compra e vendita anche di bestiame, quindi come facevano i nostri nonni 110 anni fa, 110ª edizione è stata quest'anno della fiera, ogni anno appunto si ripete questa magica fiera anche a Segusino. Il presepio ogni anno cambia un po' tema, aggiungete delle scene, quest'anno avete scelto di parlare della migrazione, perché questa scelta? Il tema è molto sentito a Segusino. Segusino ha avuto un importante fenomeno migratorio nel 1882 verso il Messico, dove alcuni segusinesi e alcuni bassofeltrini fondarono un vero e proprio paese. Partirono da Segusino, partirono con promesse di floridità, di terre da coltivare, purtroppo quando arrivarono in Messico non trovarono quello che gli era stato promesso. Trovarono terreni aridi, ma non si persero d'animo, fondarono un nuovo paese dove esiste tutt'oggi e si chiama Cipilo e dove tutt'oggi si parla il dialetto segusinese di 200 anni fa. E quindi emigrazione, appunto, parliamo di questo, parliamo dell'emigrazione verso la Francia, verso il Belgio, verso la Svizzera. Abbiamo voluto rappresentare attraverso tre scene chiave tutta l'immigrazione di Segusino e l'immigrazione veneta di fine 800 inizio 900. Una prima scena che parla della partenza, una partenza generica che vuole racchiudere tutti i fenomeni migratori. Una seconda scena che parla del ritorno, quindi dedicata a chi è ritornato. E una terza scena, purtroppo un po' più triste, dedicata soprattutto a chi non è riuscito a tornare perché non ha avuto fortuna. Il Presepe nasce dall'Associazione Amici del Presepe, però in qualche modo è coinvolta anche la Proloco, e quindi questo è un esempio anche di iniziativa che fa conoscere tutto il territorio, cioè quindi attraverso un'iniziativa si cerca anche di promuovere ciò che c'è di interessante nel territorio, quindi per esempio prodotti tipici. Ecco, che prodotti? Abbiamo citato per esempio il formaggio, quali altri prodotti ci sono? Certo, allora come dicevamo, appunto il presepio rientra nella manifestazione alla scoperta di presepi dei borghi di Segusino, che vede coinvolte diverse associazioni, tra cui anche la Proloco, a promozione appunto del paese di Segusino, la promozione del paese e dei prodotti tipici, primo fra tutti formaggio secco. Formaggio secco è una caratteristica del paese, era un formaggio povero, tra virgolette, chiamiamolo povero, nato appunto dei nostri nonni, bisnonni. È un formaggio fatto di latte crudo, dove veniva fatto col latte della sera prima, e il nome Szczek deriva appunto dal rumore caratteristico onomatopeico che faceva la forma di formaggio quando veniva rovesciata. Se qualcuno volesse visitare il presepio artistico di Segusino può andare sul sito internet www.presepiosegusino.it e trovare anche il calendario delle numerose iniziative che ancora si svolgeranno da qui al mese di febbraio. Noi ne segnaliamo Una in particolare, domenica prossima, l'11 gennaio, l'occasione può essere la pedonata alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, una pedonata appunto non coperta a tutti, anche con i passeggini, con due percorsi di 3,2 km o di 7 km, che inizierà alle ore 14 nel piazzale del presepio artistico, quindi di fronte alla chiesa di Segusino. Ci fermiamo adesso per alcuni minuti, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Non posso stare col cuore spento, no, e gli occhi chiusi qui sopra il pavimento. Ho perso il treno con dentro un guanto, se guardo bene sì, siamo ancora in tempo. Ma hai già deciso, lo so, potevi dirmelo, hai regalato sogni a tutto il mondo ed ora voli via, scappi via, mamma mia. Non accetto più sogni dagli sconosciuti, se ti va di sognare fallo senza dormire. Non accettare sogni che non siano solo tuoi, e decidi tu quando volare, quanto volare vuoi. A modo mio anche io sogno, ma tra il sogno e il fare è immenso il mare. A modo suo ognuno è un genio, non giudicare un pesce se non può volare. Ma hai già deciso, lo so, potevi dirmelo, hai regalato sogni a tutto il mondo ed ora voli via, scappi via, mamma mia. Non accetto più sogni dagli sconosciuti, se ti va di sognare fallo senza dormire. Non accettare sogni che non siano solo tuoi, e decidi tu quando volare, quanto volare vuoi. Se si avvera non lo sai, meglio non svegliarsi mai e volare con via. Se è vera non lo so, e così non mi sveglierò. Vuoi provare a volare o no? Volare o no? Volare o no? Volare o no? Eccoci di nuovo in linea con il quadrifoglio. Oggi siamo a Segusino e stiamo cercando un po' di conoscere questo territorio, le particolarità di questo comune al confine tra le province di Treviso e di Belluno, e andiamo adesso ad approfondire questo formaggio che si chiama Cec, e ne parliamo con una delle due produttrici, Maria Caterina Verri, del caseificio Stramare Dario e Saverio. Ecco Caterina, che cos'è questo Cec? Lo Cec è il formaggio tipico di Segusino, che anticamente veniva preparato con il colostro, cioè il latte dei primi 5 giorni dopo il parto. Tant'è che lo chiamavano anche il formaggio fatto col latte di zucca, perché è giallognolo rispetto al latte bianco. Non avendo caseina, rimane sempre un formaggino molto molto tenero. Veniva messo a cagliare direttamente nel secchio della mungitura, e quando era pronto, cagliato, dopo un 20-40 minuti, quando avevano finito i lavori, lo rompevano, lo mescolavano un pochino e lo mettevano a scolare nella scolapaste. Quando era diventato sufficientemente sodo per essere tagliato a fette e distribuito, veniva buttato su un piatto di portata e faceva questo caratteristico rumore, scec, Oggi però non lo fa più e non si fa più con questo tipo di latte. Non è più neanche consentito utilizzare il colostro al di fuori dell'alimentazione animale, quindi logicamente non lo puoi fare. Fino a una ventina d'anni fa si faceva nelle case perché magari c'erano una o due mucche, buttar via questo latte prezioso, perché in fin dei conti il colostro è pur sempre una fonte, una bomba alimentare per un vitellino, perché è pieno di anticorpi, di proteine, di sieroproteine molto nobili, che servono anche proprio per ricostruire tutto il sistema immunitario. Ecco, siete rimasti solo in due a fare questo formaggio Cicciacche, e si trova solo a Segusino. Sì, a Segusino abbiamo questa piccola rivendita direttamente nell'azienda agricola, e poi facciamo il mercato settimanale dei contadini a Valdobbiadene. Lo fate in varie tipologie, cioè si può mangiare fresco, ma si può trovare anche stagionato. Fresco, stagionato, oppure anche con aromi tipo il peperoncino, la salvia, l'alloro, la senape. E si può consumare anche cotto. Sì, viene molto buono cotto, perché resta un formaggio filante, morbido. Per capire, rispetto ad altri formaggi forse più noti, a che cosa potrebbe assomigliare? Il bastardo del Grappa, come tipologia, per la forma, per il tipo di forma, nel senso proprio il peso, perché anche loro fanno questa formina sui 2 kg, 2,5 kg al massimo. E un formaggio semicotto, quindi portato non più di 40-41 gradi per la seconda cottura, cagliato verso i 35-36 gradi, che sarebbe praticamente la temperatura del latte appena munto. Grazie. Lasciamo adesso Segusino e scendiamo più verso la pianura per le prime notizie di questo 2015. Come tradizione, Veneto Agricoltura presenterà a gennaio le prime valutazioni 2014 sull'andamento del settore agroalimentare veneto. Nell'occasione verranno illustrati i primi risultati dell'andamento dell'annata agraria, delle coltivazioni e dell'allevamento, e tutti i dati sull'andamento delle imprese, l'occupazione e il commercio con l'estero, appunto, del settore agricolo. Appuntamento il 16 gennaio 2015 nella Corte Benedettina di Legnaro. Sempre Veneto Agricoltura, il 23 gennaio organizza il terzo appuntamento del Trittico Vinicolo, in cui saranno presentati i dati consuntivi della vendemmia 2014. Nell'occasione si parlerà anche di esporti vino veneto attraverso la presentazione di uno studio realizzato di recente. L'orario e la sede sono alle ore 9.30 alla cantina dei Colli Iberici, gruppo Collis di Lonigo, in provincia di Vicenza. Domenica 18 gennaio 2015 in piazza Mazzini a Breganze si terrà l'edizione numero 20 della prima del Torcolato DOC, una manifestazione che celebra questa preziosa specialità enologica vicentina, frutto di una tradizione vitivinicola testimoniata storicamente già da Aureliano Acanti nel 1754. Il torcolato si ottiene dalla spremitura dell'uva autoctona Vespaiola, vendemmiata a settembre e appassita per mesi nei fruttai delle cantine. Per l'occasione, il 18 gennaio, oltre alla tradizionale prima spremitura delle uve appassite in piazza, conferite da tutti i produttori soci del consorzio, sarà riempito un esclusivo e unico Baltazar, una bottiglia da 12 litri, celebrativa, sotto la regia del sommelier Alessandro Scorsoni. Infine, sabato 31 gennaio, dalle ore 16 e domenica 1 febbraio, dalle 10 alle 18, nel Palazzo della Gran Guardia di Verona si tiene la 12ª edizione di Anteprima Amarone, che quest'anno riguarda la produzione dell'annata 2011. Anche per questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bruradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.